Cari fratelli e sorelle, nel corso dei ritratti di grandi padri e dottori della Chiesa che cerco di offrire in queste catechesi, l'ultima volta, 2 settimane fa, ho parlato su San Gregorio Nazianzeno, vescovo del IV secolo, e vorrei oggi ancora completare questo ritratto di un grande maestro. Riflettendo sulla missione che Dio gli aveva affidato, San Gregorio Nazianzeno concludeva: «Sono stato creato per ascendere fino a Dio con le mie azioni». Di fatto, egli mise al servizio di Dio e della Chiesa il suo talento di scrittore e di oratore. Compose numerosi discorsi, varie omelie e panegirici, molte lettere e opere poetiche, quasi 18.000 versi, un'attività veramente prodigiosa. Aveva compreso che questa era la missione che Dio gli aveva affidato e dice: «Servo della parola, io aderisco al ministero della parola, che io non acconsenta mai di trascurare questo bene. Questa vocazione io l'apprezzo e la gradisco, ne tracco più gioia che da tutte le altre cose messe insieme». Ignazio Anzeno era un uomo mite e nella sua vita cercò sempre di fare opera di pace nella chiesa del suo tempo lacerata da discordie e da eresie. Con audacia evangelica si sforzò di superare la propria timidezza per proclamare la verità della fede. Sentiva profondamente l'anelito di avvicinarsi a Dio, di unirsi a Lui. E quanto esprime egli stesso in una sua poesia, dove scrive: «Tra i grandi flutti del mare della vita, di qua e di là da impetuosi venti agitato, una cosa sola m'era cara, sola mia ricchezza, conforto e oblio delle fatiche, la luce della Santa Trinità». Gregorio fece risplendere la luce della Trinità difendendo la fede proclamata nel Concilio di Nicea: un solo Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, triplice luce che in unico splendor si aduna. Quindi afferma sempre Gregorio, sulla scorta di San Paolo: «Per noi vi è un Dio, il Padre, da cui è tutto, un Signore Gesù Cristo, per mezzo di cui è tutto, e uno Spirito Santo in cui è tutto». Gregorio ha messo in grande rilievo la piena umanità di Cristo per redimere l'uomo nella sua totalità di corpo, anima e spirito. Cristo assunse tutte le componenti della natura umana, altrimenti l'uomo non sarebbe stato salvato. Contro l'eresia di Apollinare, il quale sosteneva che Gesù Cristo non aveva assunto un'anima razionale, Gregorio affronta il problema alla luce del mistero della salvezza: ciò che non è stato assunto non è stato guarito. E se Cristo non fosse stato dotato di intelletto razionale, come avrebbe potuto essere uomo? Era proprio il nostro intelletto, la nostra ragione, che aveva e ha bisogno della redazione dell'incontro con Dio in Cristo. Diventando uomo, Cristo ci ha dato la possibilità di diventare a nostra volta come Lui. Ignazio Anzeno esorta, cito: «Cerchiamo di essere come Cristo, poiché anche Cristo è divenuto come noi. Di diventare dei per mezzo di Lui, dal momento che Lui stesso per il nostro tramite è divenuto uomo, prese il peccio su di sé per farci dono del meglio». Maria, che ha dato la natura umana a Cristo, è vera madre di Dio e in vista della sua altissima missione è stata, così dice, prepurificata, quasi un lontano preludio del dogma dell'Immacolata Concezione. Maria è proposta come modello ai cristiani, soprattutto alle vergini, e come soccorritrice da invocare nelle necessità. Gregorio ci ricorda che come persone umane dobbiamo essere solidali gli uni verso gli altri. Scrive: noi siamo tutti una sola cosa nel Signore, ricchi e poveri, schiavi e liberi, sani e malati, e unico è il capo da cui tutto deriva, Gesù Cristo. E come fanno le membra di un solo corpo, ciascuno si occupi di ciascuno e tutti di tutti. Poi, riferendosi ai malati e alle persone in difficoltà, conclude: questa è l'unica salvezza per la nostra carne e la nostra anima, la carità verso di loro. Gregorio sottolinea che l'uomo deve imitare la bontà e l'amore di Dio e quindi raccomanda: se sei sano e ricco, allevia il bisogno di chi è malato e povero. Se non sei caduto, soccorri chi è caduto e vivi nella sofferenza. Se sei lieto, consola chi è triste. Se sei fortunato, aiuta chi è morso dalla sventura. Da a Dio una prova di riconoscenza, perché sei uno di quelli che possono beneficare e non di quelli che hanno bisogno di essere beneficati. Sii ricco non solo di bene, ma anche di pietà, non solo di oro, ma di virtù, o meglio di questa sola. Supera la fama del tuo prossimo, mostrandoti più buono di tutti, renditi Dio per lo sventurato, imitando la misericordia di Dio. Gregorio ci insegna anzitutto l'importanza e la necessità della preghiera. Egli afferma che è necessario ricordarsi di Dio più spesso di quanto si respiri, perché la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Nella preghiera noi dobbiamo rivolgere il nostro cuore a Dio per consegnarci a Lui come offerta da purificare e trasformare. Nella preghiera noi vediamo tutto alla luce di Cristo, lasciamo cadere le nostre maschere e ci immergiamo nella verità e nell'ascolto di Dio, alimentando il fuoco dell'amore. In una poesia che allo stesso tempo meditazione sullo scopo della vita e implicita invocazione a Dio, Gregorio scrive così: hai un compito, anima mia, un grande compito se vuoi. Scruta seriamente te stessa, il tuo essere, il tuo destino, donde vieni e dove dovrai posarti. Cerca di conoscere se è vita quella che vivi o se c'è qualcosa di più. Hai un compito, anima mia. Purifica perciò la tua vita. Considera per favore Dio e i suoi misteri. Indaga cosa c'era prima di questo universo e che cosa esso è per te, da dove è venuto e quale sarà il suo destino. Ecco il tuo compito, anima mia, purifica perciò la tua vita. Continuamente il Santo Vescovo chiede aiuto a Cristo per essere rialzato e riprendere il cammino e dice: sono stato deluso, o mio Cristo, per il mio troppo presumere. Dalle altezze sono caduto molto in basso, ma rialzami di nuovo ora, poiché vedo che da me stesso mi sono ingannato. Se troppo ancora confiderò in me stesso, subito cadrò e la caduta sarà fatale. Gregorio dunque ha sentito il bisogno di avvicinarsi a Dio per superare la stanchezza del proprio io. Ha sperimentato lo slancio dell'anima, la vivacità di uno spirito sensibile e l'instabilità della felicità effimera. Per lui, nel dramma di una vita su cui pesava la coscienza della propria debolezza e della propria miseria, l'esperienza dell'amore di Dio ha sempre avuto il sopravvento. Hai un compito, anima, dice San Gregorio anche a noi, un compito di trovare la vera luce, di trovare la vera altezza della tua vita, incontrandoci con Dio che ha sete della nostra sete. Grazie.